Radio Fuscia. Allo. Ciao Tore. E beh. Buonasera. Che avvento sta? Non lo so perché ne sono dentro io, per cui non mi sono affacciato per vedere. Quando sono uscito io stava piovigginando poco fa, a portare il cane, stava piovigginando, ma vanno lo gioco, comunque dovrebbe essere sempre piovigginando. È probabile, no, a quest'ora non te lo so dire perché non ho guardato fuori dalla finestra, qui è sto chiuso, la barriera, vetri e tutto, perciò no. Non lo so, non ho guardato la verità. No, anche perché mi stavo facendo un nuovo collegamento di questa radio qui, mi stavo facendo. Ho accorciato il filo che era troppo lungo, però e mi dava fastidio. Allora l'ho accorciato, dai. Però si è messo a posto, è così. E andava. Beh certo. E d'altronde cosa? Cosa vuoi fare? Non c'è che puoi uscire, se sta piovendo, figurati. No, ma siccome dovevo fare? No, e poi mi voglio costruire un'antenna, un dipolo per ascoltare i 40 metri, eccetera. Voglio costruire un dipolo e lo stavo progettando, lo stavo. Diciamo che stavo cercando un bulloncino sottile, mi serviva, gliel'ho trovato. Per cui l'intenzione è quella, così me lo preparo, appena che faccio il pomodoro salgo su e me lo piazzo. Per ascoltare mi serve, non mi serve per altro. Per ascoltare i 40 metri. Ho capito. Oggi compreso. Via da te che lo puoi mettere. Io faccio un po' su buon in nuda. E come mai lo puoi mettere? Perché tu abiti sotto? Non c'è possibilità di andare sul tetto? Se salgo sul tetto spacco le tegole, non si può adesso, sono d'estate si può, però anche se le avrei avuto non le metterei neanche perché no, secondo quanto è lungo per i 40 metri un dipolo vuole intorno ai 20 metri, 10 metri per lato, per ogni lato, ma lo puoi mettere anche, intanto lo puoi mettere come si fa di piazza, lo puoi mettere a un'invertita, lo puoi mettere anche orizzontale, lo puoi mettere anche a squadra, no, quello non sarebbe un problema. Poi i bracci, anziché tenere 10 metri lunghi, che li puoi arrotolare su un coso, su un tubo di plastica e lo metti così in aria. Ed è la possibilità per quello. Poi per quanto riguarda il tetto, per il tegolo, io quando ho costruito la casa, attorno ai muri perimetrali, siccome sono in aderenza con le altre case, mi sono fatto la passerella per poter appunto arrivare alle antenne senza dover passare sulle tegole. Hai fatto bene. No, qua non c'è possibilità che lo faccia io. Mi mancava giù lunghissimo, quindi lascio tutto così, come in buco. E vabbè, perché poi, a parte quello, poi ci vuole anche la radio. Se tu ce l'hai il ricevitore per arrivare con la frequenza lì, io ho tutte le frequenze, sempre quello, tutta l'HF, per cui posso ascoltare dappertutto, che poi col dipolo 40 metri posso ascoltare anche gli 80, posso ascoltare, e probabilmente anche 160, non so, qua suppongo di sì, sentire sento, già sentivo con l'antenna, con la turbo, sentivo, e adesso che ho l'autocostruito, il dipolo autocostruito, tipo Game Master, sento lo stesso, in 40 metri sento lo stesso, però sento quei segnali bassi, prima con la mantova turbo sentivo anche 9,20, 9,30, adesso invece con il dipolo, perché è basso naturalmente, e perché non è adatto nemmeno per quella frequenza, sento 8, 9 di segnale massimo, ma prima sentivo anche 9,30, si può immaginare. No, ma già ci vado, ce l'ho io, ce l'ho. E ma con l'antenna che ho ci vado a sentire anche sui 10 metri a buia. Quello là, già ce l'ho. Vabbè, sui 10 metri già va bene. 10 metri è corto, cosa vuol dire? 10 metri sono appena 5 metri di polo, mio, 2 metri e mezzo per parte, per cui all'incirca prende la testa, non lo so di preciso, però ma io faccio il calcolo e so come sono arrivati per la misura precisa, e poi non mi interessa, posso fare 5 metri, posso fare 2,50 e ascolto lo stesso. Tanto io devo entrare, devo solo ascoltare, non devo trasmettere quella frequenza. Infatti. No, ma per ascoltare qualcosa già ce l'ho in HS, la buglia. Cioè questo che ho, posso ascoltare benissimo. Posso ascoltare. Solo che non me ne viene il vivo uragana detta in TV. Sono talmente indaffarato molte volte che non ho tempo manco di soltanto la sera qualche volta l'accendo e buf. Vabbè, quello sì, ma io tante volte la sera, ad esempio, che non c'è nessuno, il 27, allora mi sento liso in 40, mi sento liso e ascolto dagli amatori 40 metri, per cui va bene così. Ecco perché voglio mettere questo di polo. Sono anni che sto sempre pensando di farlo, non l'ho mai fatto, anche perché intanto ascoltavo bene quando avevo l'altra antenna, ascoltavo lo stesso, diciamo che qualche volta sono entrato anche in 45 metri fuori dai radioamatori, no? Per cui mi sentivano con la mantova tubo, mi sentivano dal nord dell'Italia fino al sud dell'Italia, mi sentivano 9, 9, 5, 9, 10 a secondo della stazione, ed ero con la mantova tubo, ero naturalmente con l'apparecchio che è a corda e che è con la corda sopra l'antenna. Ah, quello sì, di avere quello lì, di avere, quindi la voglia, no, non ci puoi andare. Ok, guarda che te ci avete, che se guardi sto attento Luca, guarda che so. Mi pare che sia Cosio o Gianni. Ah, Gianni, può darsi, ma dove sta chiamando, se non è su questo canale, attraverso il PMR l'hai sentito o qualcosa del genere? Il PMR. Appunto, è quello. Sì, no, perché l'ho sentito. L'ho sentito attraverso il PMR. Va bene, dai. Andate. La settimana è iniziata oggi. Vediamo un po' che tempo fa durante la settimana, se piove, se ci fa fare delle passeggiate o se ci costringe a stare a casa la sera, perlomeno. La mattina no. La mattina voglio se soffrire dal petrolio e esco lo stesso. La sera no, però se piove, ma nemmeno per sogno, non ci penso proprio. A me c'è una brutta perturbazione. La Sardegna la prende tutta quanta da stasera. La prende tutta. Dai, no, che pizza a casa. Quindi, sta facendo così. 3-4 giorni, non dovrebbe durare. Ho capito. Ah, Claudio, il PMR, Claudio e Giovanni sono. Tutti e due loro due sono. Ok, io faccio tutti un piccolo impiaggio di computer. No, vabbè, devo chiederle il computer. Però se non c'è il colpo di telefono. Scusa un attimo. Va bene, ciao Giovanni, buona serata, sta piovendo. In diretta mi ripunto. C'è pure io acceso. Ma acceso adesso, infatti stavo ascoltando. Non vuoi Claudio parlare in coso. Al telefono, il coso Midland. Perché dice che così si rovina del tutto la 27. Tutto sommato è vero, il baracchino. No, ho pensato, ci sono queste due, anche di più, sicuramente. Anche in digitale, col sistema canalizzato, però già va bene, senza bisogno di andare nei gruppi, perché nei gruppi la verità non mi piace, è bello perché senti tutto il mondo, però è un per andare lì quando ci sono 40 persone sintonizzate, andando qua vedi, ma di mai, no, io stamattina sono stato fortunato che un agente su due sono entrato, mi sono messo in mezzo ed eravamo in tre parlando, a giro, andiamo a giro. Ah, una mezz'oretta visto che sa due. Poi dovevo fare cosa, ho chiuso, ho detto arrivederci. Chiuso è tutto canto, uno di Napoli e uno di Palermo. Sì, poi ci sono troppi camionisti, diciamo, queste. Se quando lì si è rivelato il barattino dalla macchina, o perlomeno qui ce l'ha, ma parlano adesso così, in digitale, parlano proprio, che non mi va, non mi va. Se parlano tra di noi, nella modalità canalizzata, quello mi va benissimo, quello sono d'accordissimo, perché è come parlare con il barattino, non ci sono problemi. Però parlare con quello cosa dei gruppi, sì, già ci sono entrato, ogni tanto già ci entro lo stesso, non è che non entro, non è che lo butto via, no, assolutamente, anzi, se mi conviene, se vedo che si può entrare, entro anche, ci sono entrato tante volte, per cui, ma ripeto, a me mi piace la modalità, quella canalizzata, così almeno passiamo, andiamo fra di noi, in un circondario di 30 km di distanza, e va bene così. La buona fammi da una Austria, ragazzi, da tutti, non mi interessa più di un bel niente. Infatti, no, io l'ho provato con questi qua, due a Romanco, in tre conmigo. Abbiamo fatto un giro per una mezz'oretta e andava bene. Poi ho chiuso, perché stavo facendo ancora e li ho lasciati e andava bene. Sì, anche a parlare sul canale 1 va benissimo. Ma 3, 4, ma non di più, Sì, beh, finché siamo noi della Sardegna, di Sassa, là, diciamo, il circondario va benissimo, è tanto come parlare qua al baracchino, questa cosa, no, non ci abbiamo più niente, anzi, con la differenza che lì è un'altra cosa e si appassiona a quello, però ripeto, parlare proprio nella modalità gruppo, poi la dovuta venire dal 125, perché lo sai, no, se le segnala, quando tu guardi la mappa ti segnala tutti quelli che ci sono, e ce n'erano 125 persone che avevano fa vedere, ma erano tutti all'ascolto, a parlare parlavano sempre le stesse persone, 7-8 persone. Non mi piace così, dai. Vabbè, aspetta che c'era gente che stava parlando, chi è che vuole entrare? Avanti, se c'è Radu, boh, non vuole entrare nessuno. A chi non sai quante parte, no? Sono in Ghana, no, senza parte. Poi magari si lamentano che la frequenza è morta, e anche è morta, se nessuno entra, se nessuno ha più voglia di entrarci. Questo da dire, se uno fa questa nuova applicazione del telefonino, vuol dire che sei anche interessato, qual è la curiosità? Parla a baracchino, non se ne parla più, quella stai via, roba e l'anima. Ripeto, siamo a baracchino, dice, per curiosità, io spostiamoci sul canalizzato e va anche bene, come ho detto poc'anzi. Ma stare poi nel gruppo, cosa me la punta a me di già la media di continentali o dei camionisti, non me ne frega proprio un bel niente, più. Preferisco molto, ma molto meglio non parlare al baracchino, anche con i camionisti, però al baracchino. Anche perché sono tutti quanti quelli che dicono col dito veloce, quando hai intenzione di entrare non ti lasciano mai bianco, uno sull'altro, lasciamo perdere. Là. Poi è andato a attesa al 43esimo, si vede sicuro. Oh, ma sono così, la sapevo. Luca, a due era ancora in tre. Non è proprio il caso, guarda, ripeto, può capitare, come mi è capitato, e poi quando entro io, entro dove c'è una ruota piccola, in modo che non mi dia i due zetto massoni, cosa me ne frega di cosa? Parlo, anche ieri ho parlato lo stesso. Ieri sera addirittura ho parlato dallo stadio, stavo guardando la partita e nella pausa tra il primo e il secondo tempo mi sono collegato ragazzo con Antonio Bombolo, cioè con Antonio Bombolo e col padre Pierpaolo, noi dice, abbiamo scambiato 4 dollari in chiacchiere, poi è iniziata dopo la partita e ci siamo salutati. Stamattina lo stesso, ho sentito lo stesso stamattina Antonio Bombolo. Mi sono sentito con Salveglio anche, mi sono sentito, qualche altro che c'era, ma vabbè, comunque. Sì, c'era Luca, aspetta che c'era Luca. Luca! Luca! Cazzo, ma che deve entrare o non entra? Luca! E beh, sto, via, fa rientrato, sto. E lo facevi in macchina, sì. No, a casa. Cazzo, mi pare viaggiando in macchina, mi pare viaggiando. Però Giulio. E allora? Serna così perché è andata a affiabolendosi la moderazione. La moderazione è cominciata discretamente e poi si è affievolita così. Ma dovrebbe essere di troppo rispetto. Andami, dai. E riprenditela. Ma sto scendo male? No, pare di sì, in macchina, viaggiando. Dai, e vabbè, ti prendi giù. Sì, li prendo io. E vabbè, io non so ben poco da fare, appunto stasera gli ho detto, beh, questo filo è troppo lungo, mi dà fastidio, anche per evitare un po' di fili, eccetera. Ho preso, l'ho accorciato, mezzo tagliato 50 centimetri, mezzo tagliato, e dunque adesso l'ho rifatto. Va bene così, tanto ho dato la sfogliatina qui alla stazione e poi ho del filo, come ci stavo dicendo, e voglio prepararmi questo di foro proprio per ascoltare 40 minuti. Infatti mi ho tirato fuori il PL da pannello, ho tirato fuori, ho buscato il bolloncino piccolino per poter attaccare la corda e va bene così. Io ve la passo in questo modo anche, un po' di televisione, un po' di computer, un po' cercando di pasticciare con le forbici e con i fili e chi la fa fare. Quindi è andato a la giostra sul mio posto panino e così via, contore. Fai bene. Tanto non mangiare dagli AVV, andate, aspettate se c'era Gio Mari, magari non vi vuoi entrare, andate. Gio Maria, io avrei, l'ha sempre detto che io sempre ascolto, dal Mazzano mi sta mettendo la notte, per cui non risponde, ma che vuol dire una gara entrare, allora io avrei, e poi il PMR, che andrà bene, l'ha sempre detto lui stesso, perché lui l'ha sempre detto, se lui accende la mattina, accende e spegne la sera, continuamente, senza mai spegnere, cosa vuoi dire? Solo che non ha più voglia, l'ha detto tante volte, non ha più voglia, e vabbè, anche lui la sua età, come me, i suoi anni di frequenza, per cui l'entusiasmo da quando eravamo giovani è finito, è passato, per cui andava così. Le nostre cose ce le abbiamo già fatte ai tempi di prima, ma ormai non so più i tempi di prima, è tutto digitale, va? Va, quanto mesi dove siamo dal 1972, febbraio 1972, sempre con Baracchino, figurati, fatelo conto che tanti sono passati 46 anni e mezzo, 47 subito, 47 anni a febbraio, si può immaginare, avere un tempo di fracassi. Mi aggraziamo, veramente aggraziamo. Grazie a lei, dalle catacombe si scende. Comunque sento i cosi del fulmine, si sente, tra. Vabbè, ma sono lontani, quello non è il problema. Se si avvicina lo spagniamo, è semplice, io lo faccio sempre, mi ha fottito io la bocca. alcuni anni fa mi ha fregato, per cui da allora, quando incomincia il temporale, prendo il sacco tutto qua, anche le antenne delle televisioni, tutto il sacco, tutto l'altro, perché mi ha già fottito una volta, mi ha fottito e non mi fottito più, almeno che durante la notte improvvisamente viene un temporale, io sono addormentato e non lo sento, allora è diverso il discorso. Però se vedo che il tempo si mette male, stacco già prima, in anticipo. No, l'ha messo il temporale, l'ha messo da stasera, l'ha messo il temporale, non solo qua, in tutta la Sardegna l'ha pulso. E infatti l'ha fatto vedere oggi, temporale di pomeriggio e notte. Sì, io già lo guardo sempre il meteo, per cui già sono sempre aggiornato, anche sul telefonino, guardo sempre anche nel telefonino l'aggiornamento meteo, per cui già sono sempre aggiornato. E va bene così, dai. Intanto il tempo non me ne manca, per cui posso fare anche queste cose. Infatti sono nel telefonino, c'ho temporale, c'ho la nuova con la zig-zag. Sì. Andrà bene. Cosa dire? Io chi è che vuole entrare in questa frequenza? Tutti morti sedi, o morti, averti da pura. E chi è? Questo è carino, hanno un buon cane o cava pura. Ma chi tu sei? Mi pare di no. Aspetta un attimo, tocca che mi tiro un po' di attrezzatura qua, se no tanto ormai no, non è molto acqua, ma se mi va vedere, dunque no, non ho il tempo di fare cosa. Abbiamo già iniziato, ma si mi ha buttato la macchina, ma è il tiro di fermi che ci sono qua. Minuti dopo e ritorno subito. Intanto faccio una chiamata nel PMR.